sunt în metai, cam mă vesc cu dar ne regi, dar la tot e de gaun, să nu gastu mun gira, ca o gira ni paleri si biciotte, ma nu pensano ca videro ca sul la buciu troppo voi se vi ca do, ma non lo voglio, per una nuova vera, e rede tu mi ci manna che sta l'ingiustizia vera, non te lo può toccare, tu te fai non amate spirre, e tu lo volessi ammazzare, ma te conviene che riccio a ferro, sai che sta vita è una gabbia, sta storia non mi piace, ne ammazzano lentamente e me parrate ancora le pace, bastoni tra le ruote, di vita oramai fottute, parrate a cui manco sentite, non capite ma legiferate, rispondemmo che a verità, parramo le storie vere, parramo le sti picciotte, la gente del quartiere, parramo di picciriti senza un futuro concreto in mano, parola muta te lo canto, parole che viaggiano lontane, e lontano vicino allo sole che brucia forte sopra una spiaggia, cresce in un degrado e la gente s'arraggia, ma comancia non c'è interessa, parecchio mercante rimane tangente alla cultura che l'ho dottrinato, quella dell'Occidente, parlate, sorridete, non capite, bastoni fra le ruote, di vite oramai fottute, ricite trova Dio per tutte, tra l'amore tasse pena, terra che sarà a cangiare, parole in fondo mare, parole in fondo mare, parlate, sorridete, non capite, bastoni tra le ruote, di vite oramai fottute, ricite trova Dio per tutte, tra l'amore tasse pena, terra che sarà a cangiare, ma se parole in fondo mare, parole in fondo mare, lirica che critica la loro politica cinica, fanno promesse dette in pratica, illudono chi fatica, ma la gente che l'ha capito, che li ha votato, si sta svegliando, si unisce a chi dà una vita contro il sistema, sta lottando e brucia la rabbia, lo frate immigrato represso costantemente, assieme a questo intagiovaglio brucia la rabbia di quella gente, e brucia la rabbia, non c'è giù ragazza, la gente non mangia spasa, diritti primari negati in Palermo, c'è qua ancora nave una casa, sull'orlo del baratro io sono grita ma tu ma motte, eppure quando mi sfrottere col reddito per tutti, rispetto per le lotte, per i compagni massima fiducia, dico lottiamo contro il sistema fino a che Babilonia brucia. Parlate, sorridete, non capite, bastoni fra le ruote, di vite oramai fottute, decisi tra vaghi e vittori.